Fujiko Factory, your musical playground. Buon giovedì di Fujiko Factory, io sono Lucri e in mia compagnia ci sono Adelina, Alfo, Giuli. Oh, tutti riuniti, tutta la redazione musicale riunita per questa super puntata di giovedì di Fujiko Factory. Ve l'abbiamo annunciato in questi giorni, questa sarà una puntata interamente dedicata a Ultimo Concerto. E quindi noi non vediamo l'ora di fare questa rassegna di ospiti, perché saranno anche con noi tanti ospiti oggi, e una rassegna di voci, perché siamo stati in piazza nei giorni passati e anche questa stamattina, quindi voci freschissime dalle fresche dalle vie, dalle piazze bolognesi, quindi ascolteremo in maniera abbastanza corale commenti così un po' a caldo di quello che sta succedendo a riguardo. Tra l'altro, appunto, abbiamo in studio con noi i nostri super inviati d'eccezione, che sono stati appunto martedì durante la nostra puntata tutta interamente dedicata alla mobilitazione in piazza. Com'è stata? Ma è stato bello, abbiamo potuto anche confrontarci dal vivo con chi sta vivendo sulla sua pelle questo dramma, perché alla fine è un dramma della privazione del lavoro, della propria passione anche, e quindi speriamo anche di aver potuto fare un buon lavoro dando voce a chi magari voce non ne ha avute. Dal mio punto di vista posso dire che io mi sono emozionata, più che altro perché studiando al DAMS, vedere tutte queste persone che fanno quello che tu vorresti fare nella vita e vederle, diciamo, in questo momento così di crisi, un po' disperate sotto questo punto di vista, è molto traumatico, perché comunque mi rivedo in quello che dicono, cioè danno voce e spazio allo spettacolo e alla cultura, ma in questo periodo spettacolo, cultura, cinema, danza, qualsiasi cosa è messa, diciamo, in secondo piano, e quindi è stato emozionante, sì. È stato emozionante, noi siamo ben felici all'interno del nostro Fujiko Factory di aver dato voce appunto alla mobilitazione in piazza martedì in tutte le piazze italiane, come dar voce a quello che avverrà sabato, questo maxi concerto in contemporanea in 130 live club in tutta Italia. Noi vi racconteremo un po' cosa succederà, ma soprattutto oggi avremo, giustamente come diceva Adelina, molte voci, perché intervisteremo Cimini e intervisteremo il Locomotive e ci faremo appunto raccontare al Locomotive come stanno organizzando questo ultimo concerto, e avremo anche la voce di Bebo dello Stato Sociale, che loro saranno appunto diciamo i protagonisti al Locomotive per la data bolognese di questo maxi concerto che noi non vediamo l'ora di ascoltare. Sì, tra l'altro c'è anche un po' la questione, perché i live sono tantissimi, sono 130 tutti in contemporanea dalle ore 21 e sono diciamo visibili al link, mi pare, o comunque sul sito l'ultimoconcerto.it e sulla pagina Facebook dell'ultimo concerto, e non sappiamo quale concerto, però su quale concerto sintonizzarci, perché chiaramente sono 130 tutti in contemporanea e quindi c'è un po' l'imbarazzo della scelta. Assolutamente sì, infatti come raccontavamo ieri e martedì all'interno del nostro Fujiko Factory, io predisporrò tutta la casa con schermi in modo tale che cambiando stanza cambio concerto. Beh, diciamo che sicuramente questa è un'opportunità che, per quanto virtuale, potrebbe anche ridarci un po' quel sapore di evento, anche se come oggi ho potuto confrontarmi con diversi ragazzi fra via Zamboni e Piazza Maggiore, chiaramente il concerto dal vivo è tutta un'altra cosa. Sicuramente è tutta un'altra cosa, però accontentiamoci, diciamo, di questo, che speriamo possa essere appunto monito di un cambiamento, come dalla prossima settimana ci sarà la settimana sanremese, quindi insomma in queste settimane ci sarà tanta musica. E a proposito di musica, la musica ci fa sentire il cuore a mille. Anche oggi Calcutta con noi, come ci ricorda anche questo. Ma visto che questa puntata di oggi, in realtà il mood di oggi ho visto un po' di persone, tutte le persone mi sembrano con un mood un po' strano, secondo me c'è bisogno di partire con questa puntata con un po' di karaoke. No. Mi dissocio. Io pure. Non potete dissociarvi. E si parte appunto con il karaoke, come la puntata di... No, ma io non ho detto che dovete cantare. Non ho detto... No, io non canto, ho già cantato ieri. Ma che appunto il bello della musica è anche questo. Quindi con gli anni che non potete non conoscere questa canzone. Infatti la conosciamo tutti. No, Giulia è troppo bene. Ah, no, la conosci, tu la conosci. Vabbè, ma certo che la conosco, ma certo che non la canterò. Vabbè, proverò con un'altra. Se questa non la cantate, potreste cantare questa. No, eh? Questa non la conosco. Come no? Felicità. Era per portare un po' di felicità in diretta sui 103.1. Oggi ci vuole. Oggi ci vuole un po' di felicità, un panino. Tra l'altro, di questo pezzo sì, hanno fatto un remix, un mashup fighissimo con la base dei Moderat, New Error e la voce di Albano e Romina che cantano questo pezzo. Quindi è un mix tra elettronico, trash, karaoke. Fighissimo. Allora, io l'anno scorso con Benny avevamo mandato una versione della felicità in versione tipo punk, rock, ma proprio una versione totalmente distorta da questa ed era molto divertente. La felicità, felicità. Senti nell'aria, c'è già. La senti Adelina nell'aria? Io no, no, non la sento proprio oggi la felicità. No, oggi dai, un po' con questo clima anche. Vedete, vedete, guarda, loro si stanno caricando. È tutta la mattina che giro, quindi un po' di felicità l'ho percepita, dai. Un raggio di sole più caldo che va. Sto percependo questa felicità. Ma a proposito di felicità, dovrebbe essere una giornata splendida, splendente. Niente, non riusciamo a far cantare la nostra Adelina, ma io vedo che piano piano si sta caricando. Come speriamo vi stiate caricando anche voi all'ascolto, fateci sapere al 333 180 94 94 qual è stato il vostro ultimo concerto, se seguirete ultimo concerto, se invece non sapete esattamente di cosa stiamo parlando, vi basterà ascoltare la nostra puntata. Io vorrei solo fare un commento riguardo a questa canzone. Non so se puoi. Eh beh, io ci provo lo stesso perché Donatella Rettore sarà protagonista al Festival di Sanremo con i miei grandi preferiti, ovvero la rappresentante di lista in un splendido e splendente duetto trietto, quartetto. Non vedo l'ora di ascoltare perché sono molto ma curiosa. Si dice duetto anche se non si è in due? In teoria no, però come si direbbe? Però sì, lo accettiamo perché prendiamo come unicum il corpo bendistico e quindi la rappresentante di lista più Donatella Rettore, uno più uno, due duetto. Come sei in realtà in questo caso non damsiana ma conservante conservatrice, ma conservatrice non mi piaceva, ma anche perché non c'entra niente secondo me. Vabbè, no. Adelina conservatoriale, dai, ecco Adelina conservatoriale. No, vabbè, quindi Donatella regalaci tante emozioni al Festival di Sanremo, dai, nell'appunto serata dei duetti. Duetteranno appunto cantando Splendido Splendente insieme a Donatella Rettore. Ma ora ci ascoltiamo il primo brano che vuole essere appunto un manifesto perché è una band straordinaria, tra l'altro appunto è stato anche il nostro omaggio di questo lunedì di Fujiko Factory, quindi ci ascoltiamo Manifesto della banda Bardot. Oggi non lavoro, oggi non mi vesto, resto nudo e manifesto. Sono fuori dal coro, nettamente diverso, le mode se ne vanno, io resto e manifesto. Contro ogni occasione persa, i calci di sulla traversa, resto nudo e manifesto, faccio un gesto e manifesto, oggi guardo il cielo. ogni occasione persa, i calci di rigore sulla traversa. Contro paranoia e tempeste, rimanere fuori, fuori dalle feste. Resto nudo e manifesto, faccio un gesto e manifesto, oggi guardo il cielo e manifesto. Resto nudo e manifesto, faccio un gesto e manifesto, oggi guardo il cielo e manifesto. Banda Bardoli, 15:17. Voi state ridendo? Cosa ridete? No, faccio, no, nulla. E li fatti prendere troppo? Sì, bene. Vedi, vedete, questa è la felicità che la musica dà. Quindi non erano così appena entrati in studio, eh? Quindi vero, vedi che è l'aria dello studio, della proprio, vita, sì. La musica, felicità. Sì, no, perché aveva, siamo entrati negli studi prima di entrare in diretta, che c'era la finestra chiusa, quindi non era aria, era puzzo. Quindi siamo un po' oberati da questo clima. Vabbè, oggi va un po' così. Le 15:18, appunto, la nostra puntata di giovedì di Fujiko Factory, tutta a tema ultimo concerto. E ora inizieremo a fare questa infinita lista, però è giusto dar voce e appunto attenzione a tutti i singoli partecipanti, che sono più o meno così. Partendo dai primi, che sono i 99 POS, al Duel Club di Pozzuoli a Napoli. Ad Arianna Poli delle Officine Meca dall'Arci di Ferrara. Big Tony e The Drills dallo Ziggy Club di Torino. Bobo Rondelli dal Borderline di Pisa. Bologna risuona dal Binario 69, che appunto abbiamo anche sentito telefonicamente ieri. Bruno Risas, Naipe, Cimini dal Mood Social Club di Rende. Cimini, che sarà tra pochissimo sulle ospite. Nostre frequenze ospite. Poi Bazzilao dalla Fabbrica 102 di Palermo. Colapesce e Anni Martino dei Magazzini Generali di Milano. Colapesce e Di Martino, che saranno tra i partecipanti a Sanremo. Poi Cacao Mental all'Arci Bellezza di Milano. E Cicco e Cipo dal Viper di Firenze. Cisco dall'Arci Calinca di Carpi. Comunque Martina dall'Hall di Padova. Mi sono persa. Cosmo. Comunque, no, dov'è? Ho detto Cicco, Cosmo dal Fabric. Dai, Luca. Vabbè, Luca non ce la fa oggi. E dicevamo, Lucrezia, riprenditi. È durata poca la lista. Io sto piangendo perché Lucre è troppo felice. Allora, secondo me l'aria, ma non lo so cosa succede. Forse delle droghe, no? Sono più efficaci dell'aria, di solito. Io mi sono persa, però andiamo avanti. No, perché... allora, io ho iniziato a ridere perché tu non hai detto Cecco e Cipo, che saranno a Firenze. Hai detto non so bene cosa, quindi questa cosa mi ha fatto ridere, mi dispiace. Comunque poi Cosmo al Fabric di Milano, tu devi leggere questo. Vabbè, io non ce la posso più fare, però Davis dal Circolo Agorà all'Arci di Milano, sempre. Poi Death Rage dal Legend di Milano. Diodato dal Life Club di Trez sull'Adda. Idanca, la latteria Molloy di Brescia, tra l'altro un club bellissimo nel bresciano. Erika Muda, lo spazio porto di Taranto. E Spagna Circo Este da Arci Calinca, sempre di Carpi. Eugenio Cesaro, Eugenio in Via di Gioia, dall'Off Topic di Torino. Eugenio Rodondi, dal magazzino Sul Po Arci di Torino. Poi Foltier, dal Bukic di Trento. Poi i cari vecchi Finlay e il Due Bucolico, dal Vidia di Cesena. Duo Bucolico, che tra l'altro c'è ancora la diretta Facebook. Adelina, io così non riesco, però se mi fai ridere. Comunque, sono stati i nostri ospiti qua negli studi a Radio Città Fucico l'anno scorso e c'è ancora il video su Facebook, quindi era stata bellissima perché loro sono venuti qua, abbiamo fatto delle gran chiacchiere in cucina, in redazione, e poi abbiamo fatto questa diretta in cui hanno suonato dei brani. Freddo Stile e Manuel Lorenzetti, dal Fuoritema di Urbino. Perse. Vabbè, Luca oggi non ce la può fare, ma noi ci proviamo. Fu dal Cinema Vecchio di Corneliano d'Alba, Cuneo. Poi i Gazebo Penguins, da Mattatoio ad Arci, all'Arci di Carpi. Gemon, dal Germi di Milano, che parteciperà a Sanremo. E poi ci sarà Giorgio Canali, dalla K1100 di Torino. Poi Guida, dallo Splinter Club dall'Arci di Parma. Per continuare con Greg, Emilio Stella e Marilisa Ungaro, dell'Asino che vola di Roma. Scusate, troppe parole, non me ne aspettavo così tante. Questo nome è bellissimo. I Bimbi Sperduti di Peter Punk, dall'Arci Casbah Club di Mantova. I Ministri New Age di Roncade. I Satoyama da Zac, Zone Attive di Cittadinanza di Ivrea, Torino. Human e Brenda Carolina Lawrence, dal Circolo Arcipelago di Cremona. A me sempre i nomi facili, proprio. Esatto, l'abbiamo fatto apposta. Kusher, da Cantine Copuf di Varese. Lacuna Coil, all'Alcatraz di Milano. Tra l'altro, Lacuna Coil erano venute a finale ligure e niente. Grazie per avercelo detto. La mala sorte dello ZEI Spazio Sociale di Lecce. L'avvocato, dal Coperta di Putignano. Niente raga, io non so cosa ci sia oggi in questa redazione, però va così. Ci sono. Vai. Legno, dalla Limonaia di Fucecchio. I Legno, tra l'altro, li abbiamo anche loro intervistati lo scorso anno e sono anche loro veramente molto bravi. Poi Leon di dal Vibra Arci di Modena. Poi Los Amigos, del Circolo Culturale Florida Arci di Modena. E intanto noi ci ascoltiamo gli Zen con Ilenia e poi torniamo a continuare la lista. Dai. Non riesco nemmeno io a leggermi, aspetto la rivoluzione, ma aspettare non agire, scegliere di non scegliere, una scelta obbligata, ma i problemi degli altri mi hanno sempre affascinato, forse distratta, odio il giorno del mio compleanno, io volevo andare via, camminare sui vetri con le scarpe, mentre sono ancora qua, a compiacere tutti quanti, compiacere qualcuno che dice di amarmi, il mondo non ha un cuore, non ha foglie a sette punte, a voci ma non visi, sempre le stesse voci, una donna in silenzio, gli uomini confusi, padroni fondi della nostra epoca, non possono capire, la mia adolescenza è stata la prima a fuggire. Che mi arriva in gola, ho una madre che vorrebbe fossi un'altra persona, io non so parlare, il mio viso narra per me, sono un po' bestia, un po' danno e vorrei vivere nuda, sento il mondo con il naso, odio avercelo tappato, mi affeziono facilmente ma non ho voglia di spiegare che poi in realtà so anche parlare ma non si capisce bene e quindi un po' mi dispiace, anzi non mi dispiace di averti conosciuto in un brutto periodo, perché sei stato più bello, hai brillato di più, una scopata, un peso, non so cosa è stato per te, ma non voglio saperlo, il perché ti piace fantasticare e mettere alla fine delle frasi il perché. Ilenia qui le piazze, sono a affollate, ma innocue. Ormai le piazze fanno rivoluzioni solo quando sono vuote. Questi erano gli Zen Circus con Ilenia, che insomma hanno un po' rispianato più o meno, c'è ancora più o meno la ridarella sui 103.1. Fateci compagnia al 333 180 94 94 come la nostra Cinzia, che già ci ha scritto. Infatti Cinzia ci scrive: dai ragazzi di Fujiko Factory, sono Cinzia Lucri, fatevelo dire da una che è più vecchia di voi, forza, scritto maiuscolo, cercate di stare carichi. Cinzia, e siamo in realtà carichi, ci proviamo, l'abbiamo anche dimostrato che siamo abbastanza carichi. Troppo, forse troppo carichi oggi, scarichiamoci un po'. Scarichiamoci e ci scarichiamo continuando con questa fantastica lista. I prossimi sono i nostri amici dello Stato Sociale, dal Locomotive di Bologna, e poi la Louisiana Jazz Band e Esperanto al Louisiana Jazz Club di Genova. Luca arriva da MMB di Napoli e Mamma mi carburo dal Vizi del Pellicano, Arci di Correggio. Mannaggia! Bello, mi piace. Mannaggia! Dallo Pirwoser Arci di Roma e Manitoba del Glu di Firenze. E poi abbiamo Manuel Agnelli e Rodrigo D'Erasmo dal Bloom di Mezzago e Marco Frattini dal Diagonal di Forlì. Poi Marina Rei dall'Angelo Mai di Roma e Marlene Kunz dal Fabric di Cagliari. Max Collini da Idee di Gomma di Correggio e McCoy e il Clan dal Redenche Fonne, Arci di Belforte del Chienti. Mellow Mood dal Capitol di Pordenone e Metis dall'Arci App Colimbo Fili di Parma. Sono veramente dei nomi complicatissimi. Poi abbiamo Mirko il Cane dall'Argo Venue di Roma e Mad Push Against New Fakes, Lobo Frank Cinture dal Circolo Arci Cinaschi di Mantova. Poi il Mudimbi dal Mamma Mia di Senigallia, il Man dal Retro Novo di Messina. Orchestra Senza Spine dal Mercato Suonato, Arci di Bologna, Paolo Simoni e Geoff Tate dal Revolver di San Donà di Piave. I Pinguini Tattici Nucleari e i Cara Calma dallo Spazio Polaresco di Bergamo e Porta Napoli Risuona dal Mercato Nuovo, Arci di Taranto. E poi ancora i Pancreas dal Circo Leone di Legnano e Renzo Rubini dal Castello Volante di Corlegliano d'Otranto. Sentite i fogli, quindi vi fa capire che abbiamo cambiato foglio, ma siamo arrivati all'ultimo foglio, che parte con Roby Facchinetti dal Druso di Bergamo e Roy Paci dal Candela di Palermo. Poi Subsonica dall'Hiroshima Mon Amour di Torino e Sud Sound System e Appres la classe al Demode di Bondugno. Svetlanas dal Black Star di Ferrara e Tasso e Band da L'Artificio Arci di Torino. Siamo quasi alla fine, grazie. Infatti siamo alla lettera T, se non avete capito sono in ordine alfabetico. Ora abbiamo i The Manage dallo Scaletta Rock Club di Arci la Spezia, l'Irridente Liguria. Ma infatti fa ridere, io ho letto tutti quelli bergamaschi, prima abbiamo letto Senigallia, tu adesso stai leggendo quelli in Liguria, perfetto. E andiamo avanti con i Tre Allegri Ragazzi Morti dell'Astro Club di Fontana Fredda di Padova. Poi gli Unruly Girls del Chinetta Spazio Labus di Benevento e Veltri dall'Arci Tamburin di Seregno, e Milano. E finiamo con gli ultimi due. Voi dal Scum Arci di Pescara e i miei amatissimi Zen Circus dal The Cage di Livorno. E così abbiamo finito. Infatti, un applauso, avevo preparato l'applauso. Grazie. Perché sapevo che sarebbe stata un'impresa leggere 130 live club con i nomi che comunque non sono proprio tutti semplicissimi da ricordare. Ci scusiamo se abbiamo sbagliato qualche pronunciation, perché sicuramente sarà stato così. Però era per dar voce a tutti questi 130 live club italiani che appunto

di addormentarmi su un ghiacciaio tibetano. Congelerei, ma col sorriso che si allarga piano piano. E invece sto straiato, senza fiato, sfatto come il letto su cui prima m'hai lasciato. E resto distrutto, disperato ancora un po', ma prima o poi ripartirò. E salirò, salirò, salirò, salirò fra le rose di questo giardino. E salirò, salirò, fino a quando sarò solamente un ricordo lontano. E salirò, salirò, salirò, salirò fra le rose di questo giardino. E salirò, salirò, fino a quando sarò solamente un bambino. Lontano. Piano piano dalla base tra le rose lentamente risalire. E prenderei tra le mie mani le tue mani e ti direi amore in fondo non c'è niente da rifare. Invece in giù di così non si poteva andare, in basso di così c'è solo da scavare. Per riprendermi, per riprenderti ci vuole. Salirò tra le rose di questo giardino. E salirò, salirò, fino a quando sarò solamente un ricordo lontano. E salirò, e salirò, oh. Non so ancora bene quando, ma provando e riprovando. Salirò, salirò, fino a quando sarò solamente un puntino lontano. Lontano, lontano, lontano e con Salirò Daniele Silvestri sui 103.1. E siamo ritornati tutti e quattro, Lucri, Alfo, Giulia e Adelina, per questo Fujiko Factory del giovedì. Dobbiamo trovare una sigla che raccolga tutti i nostri nomi e lancia questa puntata in quartetto. Ma è molto più bello dire tutti i nomi. Ma no, sono lunghissimi. Giulia, Alfo, Ade, Lucri. Lucri, Ade, Giulia, Alfo. L'acronimo. L'acronimo. Laga. Laga. Laga. E gala. Sono con voi i Laga all'interno, gala. I Laga, poi non so, non... Gala, meglio. Vabbè, ci possiamo pensare. Ci ma potete anche su. Farcelo sapere se volete darci un nome a questa stramba redazione musicale al 333 180 94 94, una puntata a cui abbiamo deciso di dar voce a Ultimo Concerto. Abbiamo appena ascoltato il Locomotive che appunto hanno parlato del concerto che si terrà questo 27 sabato, questo sabato appunto, dove loro avranno i botanici e lo stato sociale. A proposito di stato sociale, in realtà abbiamo raggiunto anche Bebo che ci ha raccontato un po' cosa pensa anche lui di Ultimo Concerto. Ciao Lucrezia, ciao a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko. Guarda, noi abbiamo deciso di aderire alla campagna Ultimo Concerto per due motivi principali. Il primo, molto semplice, è perché faccio parte del comitato promotore della campagna e quindi insomma mi sembrava bello aderire ad una cosa che è stata progettata attraverso una serie di associazioni che si sono strette attorno a questa mobilitazione lunga ormai un anno, e un secondo motivo perché con la band appunto appoggiamo da sempre le istanze legate al mondo del lavoro, insomma chiamiamolo lo stato sociale, e questa è una fortuna ma alle volte anche una condanna. In questo caso è una fortuna perché cerchiamo appunto di dare voce a una cosa complicata e dolorosa anche come è stato quello del mondo dello spettacolo durante il 2020, quindi andare a raccontare il lato dei club, il lato della musica dal vivo che comunque è stato parecchio ignorato, è per noi molto importante, E quindi ci siamo inventati una cosa che è questo ultimo concerto, che è un ultimo non concerto, perché un po' non possiamo suonare prima di Sanremo, perché ce lo chiede la RAI, e un po' perché appunto questa iniziativa è proprio legata al non suonare, ecco, diciamo così, alla non possibilità di suonare, che ogni artista poi ha declinato a modo suo all'interno degli spazi che poi i club hanno concesso favorevolmente. Noi ovviamente ci siamo rivolti al Locomotive, con cui abbiamo fatto le cose più incredibili della nostra carriera dal punto di vista dei live, eccezione fatta il Mediolanum Forum di Milano, ma poi ne abbiamo veramente combinate parecchie insieme, e per ultima insomma il concerto in Piazza Maggiore dopo Sanremo. Quindi era necessario andare a bussare alla loro bellissima porta di legno al DLF, e così tanti altri artisti in tante altre location hanno deciso di aderire, proprio per far sentire in una maniera molto diversa, molto strana, la propria voce su un problema molto importante che speriamo possa andare a risolversi nei prossimi mesi. E fa comunque piacere sapere che molti nomi importanti, o anche meno importanti, del mondo dello spettacolo, in questo caso della musica, abbiano deciso di unirsi per farsi sentire, per trovare una soluzione. Ciò che è emerso anche l'altro giorno, quando eravamo a confrontarci con gli operatori dello spettacolo appunto l'altro ieri, è che ciò che è sempre mancato a questa categoria è l'unione, il saper rappresentarsi, farsi rappresentare e quindi collaborare. Questo sicuramente potrebbe essere anche uno snodo cruciale per il futuro, saper collaborare per ottenere magari quei riconoscimenti che sono sempre mancati. Esattamente, la collaborazione e l'unione tra le parti, ma soprattutto dare la voce a chi voce non ce l'ha. E come questo, tu Alfo, questa mattina sei sceso ancora in piazza, comunque sei sceso per le vie di Bologna e appunto hai fatto delle domande relative a Ultimo Concerto. Sì, Ultimo Concerto, più anche esperienze personali sui concerti, perché comunque è sempre bello sapere quali sono state le esperienze, ciò che maggiormente la gente ama di questi eventi, che adesso ci sono stati sottratti, che speriamo tornino presto. E appunto abbiamo sentito diverse voci disparate, di diversi anche amanti, diversi generi, e tutti più o meno hanno provato però le stesse sensazioni. E sentiamo la prima testimonianza. Qual è stato il tuo ultimo concerto? Il mio ultimo concerto è stato il 25 giugno 2019 al Sonic Park di Bologna degli Slipknot. E hai sentito parlare ultimamente dell'iniziativa Ultimo Concerto, volevo sapere appunto se la conosci e cosa ne pensi. Sì, ne ho sentito parlare, la conosco e secondo me è una buona iniziativa. Chiaramente non sarà la stessa cosa di andare ai concerti normali, ma spero che tale cosa possa cambiare almeno un po' le cose. Ultima domanda, primo artista che vuoi andare a vedere dal vivo quando questa situazione finirà? A Day to Remember. Grazie. Qual è stato il tuo ultimo concerto? È stato Vasco Rossi a giugno del 2019. E ti manca l'esperienza concerti, che in questo momento chiaramente è impossibile? Sì, mi manca, anche perché l'anno scorso dovevo andare a 2 o 3 concerti tutti saltati. E quindi qual è il primo artista che vuoi assolutamente vedere dal vivo quando sarà di nuovo possibile? Cremonini. Perfetto, grazie. Allora, qual è stato l'ultimo concerto in cui sei stata? Sono stata al concerto di Calcutta a San Benedetto del Tronto 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, d'estate, mi ricordo. Cos'è la cosa che ti manca di più dei concerti, di questi eventi che adesso sono impossibili? Lo stare insieme, il vivere questo momento con gli amici, stare all'aria aperta, poter ascoltare la musica, il tuo cantante preferito, proprio in maniera diretta, e quindi anche proprio la condivisione di questi momenti con le persone comunque a cui va bene. Qual è il concerto più bello, più memorabile a cui sei stata? Il concerto di Xavier Rudd. E cos'è che l'ha reso così speciale? Perché era un concerto piccolo, dove stavo vicino al cantante con tanta gente e c'era una bella atmosfera. Qual è il primo artista che vuoi andare a vedere dal vivo quando sarà di nuovo possibile? Bob Dylan. Grazie mille. E così abbiamo ascoltato Alfo, hai ascoltato e preso nota delle voci di piazza. Esatto, mi ha fatto molto piacere potermi confrontare con tutte queste esperienze. E magari torneremo per fare altre domande ai bolognesi. Alfo non vede l'ora di tornare in piazza. Alfo, sei bravissimo, ormai sei diventato il nostro inviato speciale preferito. Ah, ti ringrazio, questo... Figurati, è un piacere. Il nostro inviato speciale per Fujiko Factory, appunto un programma che vuole dar voce a chi probabilmente spesso voce non ce l'ha, ma anche voi potete aver voce. Scriveteci al 333 180 94 94, fateci sapere qual è stato il vostro ultimo concerto e soprattutto se insomma vi interessa questa iniziativa straordinaria che ci sarà sabato 27. Ma visto che parlavamo di concerti, di balotta tra amici, direi che ora andiamo ad ascoltarci Canzone per un amico. Può cambiare se non vuoi cambiare tu. Con questa canzone vorrei ricordarti che se vuoi puoi chiamarmi amico quando avrai più bisogno. Sarò sempre per te. Se tutto ti sembra andar male, pensa ai sogni più grandi, avrò bisogno di te. Così tanto di me. Se mi senti un po' lontano, non è perché non ci sono più. Sto spiccando il volo, voglio tu sia. Ci sarò sempre per te. Se tutto ti sembra andar male, pensa ai sogni più grandi, avrò bisogno di te. Questa era Canzone per un amico, Venerus. Sì, che tra l'altro Venerus il 19 febbraio ha pubblicato, ha fatto uscire il suo primo album, da cui viene anche questo pezzo, Magica Musica, un primo album di quasi tutti i pezzi inediti, perché in realtà l'album è anche composto dai primi pezzi che hanno fatto conoscere, fatto uscire questo artista. Ma continuate a scriverci al 333 180 94 94 qual è stato il vostro ultimo concerto, come Erika che ci scrive: ultimo concerto di Luvio Festival con Endrigo che era calma a Ome, piango. Anche noi piangiamo. Anche noi piangiamo ricordando appunto i concerti, come l'altro giorno che ho fatto ascoltare questo, il momento finale di un concerto, gli applausi, le sensazioni belle dopo una, due, tre ore di concerto. E con una lacrimuccia e un dai andiamo ad ascoltare un'altra voce di piazza. Cosa ti manca di più dei concerti? Il pogo. Grazie, molto onesta. Beh, anche a me effettivamente manca pogare, quindi il pogo è sicuramente una delle cose che più manca in un concerto e che al momento mi sembrano più inavvicinabili. Sì. No, davvero. Però torneranno. Lo garantisco io. Lo garantisce Alfo. Sì. Ok. Il pogo tornerà. Bene. Hashtag di oggi, il pogo tornerà. L'abbiamo trovato. E poi? Il primo concerto a cui sei stata qui a Bologna. Concerto di Jovanotti all'Unipol Arena. Te lo ricordi, è stato un bel concerto oppure evento dimenticabile? No, è stato spettacolare, penso il miglior concerto della mia vita e assolutamente da ricordare. Il prossimo artista che vorresti vedere dal vivo? Penso Cesare Cremonini. Grazie mille. Io tra l'altro a quel concerto di Jovanotti all'Unipol Arena ci sono stata, quindi non è un concerto che si può dimenticare molto facilmente. Io in realtà ero proprio sotto il palco ed è stato un concerto bellissimo, perché Jovanotti comunque diciamo che crea delle scenografie, delle performance live veramente notevoli. Tra l'altro una risposta ricorrente sul prossimo artista che si vuole assolutamente vedere è Cremonini. Da 2-3 è quotato questa risposta. Sì. Chissà perché. Vabbè, Adeli, cioè a chi piace. Dico chissà perché, perché che io sappia Cremonini non ha rilasciato, cioè non ha nuovi album o in cantiere. Anch'io ci sto pensando, credo che abbia fatto la sua ultima tournée, tra l'altro ha suonato anche allo Stadio Dall'Ara qui a Bologna. Non so se effettivamente aveva in cantiere, diciamo, di suonare ancora dal vivo, però a una certa prima o poi tornano tutti a suonare. Cioè, no, perché ad esempio io non vedo l'ora di andare a sentire la rappresentante di lista che il 5 marzo invece rilascerà il prossimo album, e quindi mentre suoneranno sul palco di Sanremo noi avremo diciamo questo regalo della finalmente uscita dell'album My Mamma. Ma tra l'altro pensando a questo, io stavo pensando ad Aiello, che insomma è uscito, diciamo, è riuscito a farsi conoscere nell'ultimo anno e mezzo, periodo in cui appunto i live poi sono stati sospesi, quindi lui l'altro giorno sarà uno dei partecipanti a Sanremo, quindi anche il suo album uscirà a marzo. Ma la cosa strana è che lui giustamente diceva: io non vedo l'ora di tornare a suonare dal vivo, perché praticamente è come se non l'avessi mai fatto e quindi non dovrò più portare solo il primo album ma anche questo nuovo che sta arrivando, quindi ha perso il passaggio di mezzo di portare a suonare il primo album. Quindi è successo per tanti artisti, poi giustamente stavamo citando Jovanotti, Cremonini, però loro è una vita che fanno concerti, quindi la mancanza di concerti principalmente è un grandissimo problema, soprattutto per i giovanissimi, per insomma le nuove uscite, le scoperte, che appunto non hanno la possibilità di farsi conoscere suonando dal vivo. Anche se immagino che comunque sarà un'emozione particolare per tutti tornare a fare, certo, eventi dopo queste limitazioni. Ma sentiamo ancora qualcuno? Sì, c'è ancora un contributo. Qual è il miglior concerto a cui tu sia mai stata? I Chainsmoker a Bologna. Cos'è che ha reso così speciale questo evento? La musica, il fatto che fossi con dei miei cari amici. È il fatto, la gran botta, posso dire culo, la gran botta di culo che da metà della fila in cui eravamo hanno aperto un'entrata e siamo arrivati sotto il palco. Cos'è che ti manca maggiormente dei concerti? Il parterre, divertirsi sotto il palco e urlare le canzoni che sappiamo a memoria. E il prossimo concerto a cui vuoi assolutamente andare, quando sarà possibile? Ho un biglietto già per quello di Ultimo. Grazie mille. Tra l'altro, a proposito di Ultimo, quando io cercavo Ultimo concerto, come primi risultati esce Ultimo l'artista. Ha scelto il nome giusto, diciamo. Ha scelto il nome giusto, esatto. Lui dice che vuole essere tra gli ultimi, parlare degli ultimi essendo Ultimo. Quindi c'è tutta una metafora molto bella dietro al suo nome. Anche lui in realtà giovanissimo e in un anno praticamente è passato a suonare in live club piccolissimi fino ad arrivare a San Siro, credo, comunque fino ad arrivare agli stadi. Quindi anche mi ricordo lo scorso anno, sempre all'interno del nostro Fujiko Factory, molto spesso abbiamo parlato comunque di questa ascesa velocissima di Ultimo. pochissimo, però che è riuscito anche perché in quell'anno, in quegli anni si poteva fare tutto ciò, si poteva suonare dal vivo, cosa che appunto in questo anno lunghissimo non si può fare. Bene. E lo so. He doesn't like. Tutto si muove, non riesco a stare fermo. Tremando ti cerco in tutti i canali. Alta tensione, ma senza orientamento. Sbandando ti seguo in tutti i segnali. Fuori controllo, ormai mi pulsi dentro. Perché sei la disfunzione, la macchia sporca la mia distanza. abbiamo fatto una doppietta Verdena Subsonica in questa puntata di Fujiko Factory. Giovedì di Fujiko Factory, una puntata interamente dedicata a Ultimo Concerto. Abbiamo dato voce al Locomotive, abbiamo sentito Bevo dello Stato Sociale, abbiamo sentito voi in giro per Bologna cosa pensate appunto del vostro ultimo concerto e di Ultimo Concerto, e ora abbiamo in collegamento telefonico con noi Cimini, cantautore calabrese trapiantato a Bologna nel 2017 col brano La legge di Murphy, entra di diritto nell'Olimpo della sua scena indie pop nostrana, confermando poi il successo con l'uscita dell'album Ancora Meglio nel 2018. Dopo i fortunati brani Scuse e Innamorato, il cantautore calabrese torna con un terzo estratto dell'atteso disco che verrà svelato nei prossimi mesi. Il pezzo è Domenica Mattina, che ci ascolteremo tra pochissimo qui sui 103.1, che è diciamo un risveglio malinconico col mal di testa, e quindi ce lo facciamo in realtà però raccontare da lui. Benvenuto Cimini. Ciao, ma hai detto tutto tu, io non devo dire più niente, io posso chiudere secondo me. Poi, presentazione assurda, cioè, fantastico. Benvenuto sui 103.1. Sì, noi di solito raccontiamo già un po', così poi si può parlare di tutt'altro, è un po' una allora tattica. Allora io voglio parlare di tutt'altro, voglio dire una cosa che non ci crederai perché sembra una paraculata assurda. Sì. Io vivo a Bologna e in macchina, giuro, ho salvato la cosa di Radio Fujiko, e questo il canale ci fa... di Radio Fujiko, secondo me. Ci fa piacerissimo, Cimini, ti saluto, io sono Alfo. Ciao, speriamo Alfo. Comunque di avere. Abbiamo comunque tanti temi da toccare, dai. Nonostante sì, abbiamo fatto comunque questa introduzione, cominciamo. Beh, allora innanzitutto allora devi dire, visto che ascolti 103.1, che il tuo programma preferito è il nostro, che è Fujiko Factory. Certo, il programma preferito è Fujiko Factory, non so, l'avevo messo prima. Cominciamo bene, l'intervista è cominciata infatti, bene. Infatti guarda, è andata proprio... campioneremo proprio questa tua frase, il loop la metteremo durante il nostro programma. È un onore per me, guarda, sarebbe bellissimo. Ma a proposito di Domenica Mattina, tu appunto racconti di questo risveglio con i postumi del sabato, ma raccontaci un po'. Allora, c'è molta Bologna dentro, secondo me, cioè almeno quando l'ho scritta pensavo, sera che tu passi al Chinotto oppure passi in giro all'Infedele, passi in quello che poteva passare quantomeno in passato, perché ormai adesso è una roba che non si può fare. Però nella mia testa ci sono state queste immagini di sabati sera passati un po' così, e quindi risvegli che ci sono la mattina successiva, risvegli un po' traumatici con i mattoni alla testa e vari interrogativi della giornata ti portano a quello che i CCCP chiamavano il tedio domenicale. Sì. E quindi poi ti vengono alla testa interrogativi sulla vita, era giusto tutto quello che ho fatto, tutto quello che ho scelto, è stato giusto? Boh, spesso no. Ma a proposito di interrogativi della vita, tu hai fatto uscire 3 singoli durante appunto insomma questo periodo che anche a livello discografico è un po' particolare. 3 singoli sì. Tra l'altro molto belli, come mai ne hai fatti uscire proprio 3? Ma non lo so perché ne ho fatti uscire proprio 3, perché però mi andava di ricominciare. Io penso che il mestiere nostro, che è stato decisamente messo un po' sotto terra e calpestato abbastanza, comunque in qualche modo debba servire a smuovere un pochino le coscienze, perché in genere l'arte è sempre anticipatrice di determinati movimenti sociali. Qui forse l'arte è stata chiamata a ricominciare in qualche modo e nonostante tutto. Quindi dopo essere stato fermo dal 2019-2020 perché dovevo scrivere, e poi nel 2020 mentre registravo il disco purtroppo la sfiga che stiamo vivendo tutti quanti mi ha portato a stare ovviamente a casa, allora quando si è potuto uscire ho detto ma sai che ti dico, usciamo con un brano, e poi piano piano abbiamo tirato fuori gli altri, e nonostante il periodo mi sento fortunato perché la gente ascolta e i numeri crescono, quindi vuol dire che è apprezzato, mi fa piacere. Intanto con le tue risposte, cioè, hai anche raccontato un po' di Bologna, un po' di questa attualità, oltre chiaramente del tuo progetto e della tua musica. Una domanda comunque inerente a questo che volevo farti è come nasce questa collaborazione con l'illustratrice Noemi Vola, che comunque realizza appunto anche per questo brano Domenica Mattina delle illustrazioni appunto collegate con il tuo brano. Ma è una collaborazione che anche questa nasce a Bologna. Ci siamo tutto trovati Bologna. Un po'. Ma sì, ma perché è comunque un centro importante, continua ad essere un centro culturale importante, anche se spesso parlando di Bologna si pensa sempre al passato, però c'è un bel presente secondo me a Bologna. E io ho conosciuto Noemi perché mi ha fatto da gancio, da tramite, il mio collaboratore e amico Stefano Bazzano, che lavora sempre a tutti i miei progetti con la sua aura artistica che mi circonda. Mi ha fatto conoscere Noemi perché abbiamo ragionato insieme sul fatto che questo disco, questi brani dovessero avere un filtro in cui magari si poteva effettivamente dare al pubblico un cucchiaino, come dire. Abbiamo chiamato Noemi perché fa dei disegni infantili che però dentro nascondono tanta verità, tanto contenuto, un po' come le canzoni che ho scritto per questo disco. E mai scelta fu più azzeccata, diciamo così. Siamo diventati amici, ci siamo sposati culturalmente, c'è stato questo connubio che mi è piaciuto tanto e sono felice. Beh, un connubio artistico che, insomma, quando si lavora insieme poi nascono sempre delle cose molto belle. Ma il disco quando esce? Ma sai che non lo so, dovevo saperlo, non lo so. Non lo so, noi te lo chiediamo. Ah, vabbè, guarda, esce nei prossimi mesi sicuramente. Adesso, ma infatti di solito le risposte sono così, quando non si sa la risposta, nel dubbio, ma sì, fra qualche mese. No, ma la so la risposta, solo che non posso dirlo. Lo so, però che la sai uscirà... la risposta, speravo ti uscisse così. No, uscirà tra qualche mese. Allora... facciamo il primo aprile, capito? Ci sarà un pesce d'aprile. La risposta più giusta, primo aprile. Uscirà il primo aprile. Sì, uscirà tra qualche mese. Io, guarda, la verità, a me non interessa quando esco un disco, voglio suonare. Con questo ti sto dando un assist sull'ultimo concerto, che è una roba bellissima, assist. Però voglio suonare. E se mi chiedi come mai hai pubblicato 3 singoli prima, è perché voglio suonare, perché volevo ricominciare a fare qualcosa di normale, ma il mio obiettivo è suonare perché mi manca la gente, mi manca il pubblico, mi manca emozionarmi di fronte alle persone. Quindi anche questo periodo, diciamo, non ha inciso più di tanto magari sulla tua creatività, sul tuo rapporto con la musica? Le mille limitazioni non hanno inciso, perché magari per altri artisti che abbiamo sentito ha influito molto? No, io questi brani li ho scritti precedentemente nell'idea di registrazione, quando ci siamo trovati a registrare. Abbiamo passato dei momenti anche un po' di scazzo con gli altri collaboratori, con Carota, con Fabio Gargiulo, insomma, ma di scazzo personale, non tra di noi, perché magari il lockdown aveva fermato, aveva bloccato un flusso creativo, canzoni, o per chi arrangiava i miei pezzi, così, quindi per qualche mese ci siamo fermati proprio perché non avevamo motivazione, però puoi dire normale che sia così. Ultimamente non sto scrivendo tantissimo perché inizio a soffrire le quattro mura. Penso che un ciclo artistico, e questo va fatto capire anche purtroppo a chi gestisce altro, però gestisce le nostre vite, no? Un ciclo fatto di due momenti fondamentalmente, che sono quelli della scrivania e quelli del pubblico. Il momento della scrivania in cui scrivi le canzoni, cioè è ciclico, il momento in cui scrivi le canzoni io l'ho passato, adesso sto pubblicando le canzoni, adesso voglio suonare. E questa cosa, il fatto di suonare, poi mi porterà a riempirmi di idee, di motivazione per rimettermi a scrivere altre canzoni, quindi è importante. Piano piano si possa ricominciare nel rispetto di quello che sta succedendo qua intorno, insomma. Esattamente, un po' quello a cui diamo voce anche all'interno del nostro Fujiko Factory. Anche noi martedì siamo scesi in piazza appunto per chiedere risposte ed azioni concrete, perché anche a noi manca la musica live, ci manca proprio anche la vostra energia, perché giustamente noi spesso vi chiediamo: ma state riuscendo a scrivere, a produrre musica? Perché anche noi, insomma, chiusi in casa, venire in radio è un po' una boccata d'aria, però appunto poi è difficile non riuscire a fare il proprio mestiere come meglio è, quindi mancando appunto la collaborazione e lo sguardo delle persone. Infatti noi in questi giorni spesso mettiamo questo, non so se lo senti, che è l'applauso finale di un concerto, ecco, manca proprio questo. Tra l'altro io c'ero a quel concerto, mi lo ricordo. Ma tra l'altro il tuo ultimo concerto qual è stato? Il mio ultimo concerto è stato, ma io quest'estate ho fatto una piccola una piccola roba a Modena, ho suonato in Sardegna, perché però sempre per alcune robe legate a questo periodo un po' particolare, però non posso chiamarlo concerto, cioè ho fatto un paio di apparizioni nel 2020, ma era più la boccata d'aria, come hai detto tu prima. Il mio ultimo vero concerto, noi ci eravamo fermati nel 2019 quando abbiamo finito il tour, l'abbiamo fatto a giugno del 2019. Da allora volevo suonare, mi sento molto loser a dire questo, al 2019, però voglio suonare col gruppo, certo. con la mia band. Ti posso dire la verità, ho registrato un concerto in Calabria che spero di riuscire a pubblicare tra qualche tempo sui social. Anche insomma, questo, così. Tempo X, non si sa quando, ma arriverà. No, ma non lo so, questo non lo so, non è un annuncio, sai, per essere formali. Però quell'esperienza lì, fatta un mesetto fa, ci ha dato davvero la parvenza di un vero concerto. Ci siamo messi in furgone, quindi mi piace pensare che l'ultimo mio concerto è stato quello là, che ancora deve esserci. E a proposito di ultimo concerto, però una sorta di concerto, ovvio, poi manca il pubblico, manca il calore, però è un inizio. Ci sarai anche tu, appunto, questo sabato a ultimo concerto. Sì, ci sarò anch'io, ho affiancato le mie origini e dei colleghi calabresi, ovvero Brunori, Sasso e Nice. Ci siamo trovati al Mood di Cosenza, abbiamo fatto una roba molto particolare che secondo me, io l'ho vista oggi, è molto divertente. Esatto, quindi noi non vediamo l'ora. Io ma non possiamo svelare. No, non possiamo svelare nulla. Non sveliamo nulla, ma appunto noi ci saremo, seguiremo. Io ho già deciso che in casa mia metterò 5-6 schermi diversi per riuscire a seguirli, e ammetto che il vostro sarà uno di quelli che vorrò seguire. Esatto. Ma io penso alla sorpresa, capito, che ci sarà da parte di tutti e del pubblico, sarà una roba davvero bella ed è una roba che ci voleva, devo essere sincero, non riesco, direi tutto, cioè farei uno spoiler incredibile, però posso soltanto dire che ci voleva ed è un ottimo modo per farti vedere e sentire. E speriamo che comunque sia anche un segnale forte, oltre che una bella esperienza, perché le cose possano in qualche maniera cambiare, possano muoversi, e anche un buon auspicio per il futuro. Sì, ma le che va, io so suonare la chitarra, posso chiedere a qualche chiesa di Bologna per andare, tanto lì il pubblico c'è. Lì cerca. Ma se vuoi tu puoi venire a trovarci qui negli studi di Radio Città Fujiko, noi facciamo la puntata, tu strimpelli e ci fai da base. È chiaro, vedi, l'abbiamo risolto. Dai, allora possiamo fare così, se vuoi, ora visto che noi ci ascoltiamo domenica mattina, ma a questo punto annunciala tu. Ragazzi, ascoltate domenica mattina, anche se oggi è giovedì, però è una canzone che fa bene al ricordo e all'emozione. E noi ti ringraziamo, Cimini, per essere stato con noi. Torna presto a trovarci e rimani sempre sintonizzato sui 103.1. In macchina. Ciao. Ciao. Grazie mille. Ciao. Solo il freddo di ieri sera. Col rossetto e con la giacca nera, un altro sabato italiano, passato col bicchiere in mano. La domenica mattina restano i morsi della sera prima. E non mi ricordo più. Cosa ci faccio qui? I ciupi degli amici persi, i bicchieri con nomi diversi, le bottiglie da tirare, con la mira presa a male, le lattine rotte sotto i piedi, i baci che fanno stanotte mi hanno rotto il cuore. Ho visto mille volte questa scena, del vento caldo e la terra che trema. le partite viste sul divano, con la scommessa in mano. E poi baby, baby, baby, oh baby, baby, baby, come on. Ho già il biglietto e viaggio in piedi, ma a mezzanotte chiudono i metro. E sigarette in villa con Alfredo, e non mi ricordo più. Io non mi ricordo più se era giusto cambiare così. I giubbini, gli amici persi, i bicchieri coi nomi diversi e le bottiglie da girare con la mira presa a mare. Le lattine rotte sotto i piedi, i baci che fanno rumore, la saliva e le parole che stanotte mi hanno rotto il cuore. E quanti ricordi e quante sensazioni ci rievoca questo bel pezzo che abbiamo comunque avuto la fortuna di ascoltare e di sentire anche le voci d'autore. Soprattutto anche perché presentato da Cimini stesso, che è stato sui 103.1 con noi. Vi ricordiamo che ovviamente come tutte le nostre interviste usciranno in podcast sul nostro sito www.radiocittafugico.it, dove trovate poi anche appunto tutto sulla puntata di oggi, Ultimo Concerto, l'aver dato voce a Bevo dello Stato Sociale e al Locomotive, e poi appunto Cimini. Tra oggi e domani usciranno tutti questi, diciamo, aggiornamenti e approfondimenti. Noi vi ricordiamo, visto che siamo in chiusura, che appunto sabato 27 ci sarà Ultimo Concerto, oltre 130 live club sintonizzati, che appunto insomma ci faranno sentire musica dal vivo, che ci manca tanto. Musica dal vivo, come tra pochissimo, subito dopo la pubblicità, partirà The Show Must Go On, questo bellissimo approfondimento che abbiamo sui 103.1, che è appunto musica dal vivo che ci manca tanto. Io ringrazio i miei compagni di viaggio, Alfo. Io faccio le veci anche degli, esatto, altri che non ci sono. E ci rivediamo lunedì. Esatto, Fujiko Factory per questa settimana finisce qui, ma voi rimanete sempre sintonizzati sui 103.1 e Fujiko Factory torna dal lunedì al giovedì sempre sui 103.1, e noi ci salutiamo con i Baustelle, Charlie fa surf. piace il metal R&B, ho scaricato tutto.